devi essere contento, ora sei impiegato, sei stato fortunato anche se non sei pagato. Non ti lamentare, se domenica vai a lavorare, non esiste straordinario, non ti potrà annoiare. Comunque, questa per te è un'opportunità, ringrazia per questa opportunità, fai esperienza con questa opportunità, ti aiuta a crescere questa opportunità. Questa per te è un'opportunità, ringrazia per questa opportunità, fai esperienza con questa opportunità, ti aiuta a crescere questa opportunità. Vendita da città, ira di venti, imprenditore, fai lo spia per far carriera, sono già un direttore, di far salire il marco, assaporare il potere, poi scaglia il contratto, ti danno un calcio nel sedere. Comunque, questa per te è un'opportunità, umiliati per questa opportunità, tradisci gli amici, ma è un'opportunità, è una risorsa per te, è un'opportunità. Questa per te è un'opportunità, umiliati per questa opportunità, tradisci gli amici, ma è un'opportunità, è una risorsa per te, è un'opportunità. Sorridi dietro le spalle, sei una persona positiva, i vincenti hanno sempre l'aria un po' aggressiva, con la tua bianchina avrai sicuramente successo, e forse al prossimo step sarai ammesso. Ma intanto questa per te è un'opportunità, ma quale sfruttamento? È un'opportunità, sei a contatto con la gente, è un'opportunità, mi raccomando non sprecare questa opportunità. Questa per te è un'opportunità, a quale sfruttamento? È un'opportunità, sarà contatto con la gente, è un'opportunità, mi raccomando non sprecare questa opportunità. Non ascoltare il chi non si vuole adattare, dopo anni di apprendistato non ha più voglia di imparare, e di metterti in gioco ogni giorno a partire da zero, e per il tuo superiore girare il mondo intero. Ricorda, trasferisciti, è un'opportunità, lavora per agosto, è un'opportunità, straordinario non pagato, ma è un'opportunità, e quando sarai licenziato sarà sempre un'opportunità. Lavora gratis, è un'opportunità, rinuncia ai diritti, è un'opportunità, non andrai mai in pensione, è un'opportunità, potrai mollare i figli, ma è un'opportunità.